Passeranno generazioni e generazioni e probabilmente nessun uomo sarà riuscito a comprendere completamente ciò che avvenne nel Getsemani, o meglio, ciò che successe a Gesù in quell'orto. In punta di piedi, per fede, entriamo in quel luogo solitario per cercare di comprendere in parte l'agonia di Gesù. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare." E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: "L'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me." E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: "Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu." Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: "Così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione? Poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole." Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: "Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà." Poi, tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E, lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: "Da ora in poi dormite pure e riposatevi. Ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino." Matteo 26, 26-46. Gesù era venuto nel mondo per dare la sua vita quale prezzo di riscatto per tutti. Questo lo sapeva. Lo aveva detto varie volte ed era ansioso che arrivasse quel momento. Lo possiamo comprendere maggiormente da ciò che disse ai discepoli in occasione dell'ultima cena: "Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi." Gesù era cosciente che dopo quella Pasqua sarebbe venuto il momento tanto atteso, ma ora al Getsemani si sta realizzando una tappa fondamentale della sua missione. Gesù avverte una prima difficoltà. Entrato con i suoi discepoli nell'orto, chiede ai suoi discepoli più intimi di accompagnarlo e di pregare con lui. E, toccante questo atto di umanità, vi sono persone che pensano di essere uomini e donne di Dio solo perché non sentono il bisogno del prossimo. O non ne vogliono l'aiuto, ma questo non è altro che individualismo. Il peggiore nemico per una comunità non è il peccato, ma uno spirito individualista. Gesù si allontana un poco, ma non troppo, quel tanto da permettere ai suoi discepoli di sentire le sue preghiere. Il Figlio di Dio non si vergogna di spandere la sua anima a voce alta. Quando si è profondamente angosciati, ogni cosa scompare, le persone non esistono. Si è soli con Dio. Avviene come a quel cieco che nel sentire che passava Gesù gridava per avere grazia. Gli altri lo sgridavano e gli intimavano di tacere, ma gli evangelisti raccontano che egli gridava ancora più forte. E così Gesù pregava intensamente a voce alta perché la sua anima era oppressa. La vera necessità fa scomparire la vergogna dell'indigenza. Gesù confida ai discepoli: "L'anima mia è oppressa da tristezza mortale." Il maestro non nasconde il suo abbattimento, la sua difficoltà. Altro esempio di umanità. Vi sono persone che si vergognano di confessare i loro problemi, le loro difficoltà, le loro contraddizioni. Sembrano dei Superman, dei bronzi di riace dalla personalità scultorea, dei Rambo. Per loro il vero uomo di Dio è sempre sulla cresta dell'onda, autonomo, sempre coraggioso, che incorpora in sé tutte le virtù. Ma un uomo di Dio è prima di tutto un uomo, cioè un essere soggetto, come tutti, alle più grandi contraddizioni. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Giacomo 5,17. Vi sono credenti che amano Dio e la sua opera, ma spesso sono disumani nelle valutazioni e nei giudizi verso il prossimo. Se fossero stati presenti al tempo di Gesù, lo avrebbero ritenuto colpito e umiliato giustamente da Dio. Isaia 53:4. L'anima mia è oppressa, confessa Gesù. Colui che non ha mai tremato di fronte a qualsiasi difficoltà, che è stato un esempio nel sopportare l'opposizione da parte dei peccatori, Ebrei 12:3, in quel momento era veramente angosciato. Perché? Cosa stava succedendo? Stava forse facendo qualcosa di sbagliato? Vi sono cristiani che pensano che la vita cristiana sia esente da momenti bui. Com'è bello evangelizzare, com'è piacevole stare assieme tra cristiani, com'è edificante vedere il Signore che opera, ma conoscere la volontà di Dio significa anche provare le più profonde sofferenze, poiché dove ci è molta sapienza ci è molto affanno e chi aumenta la conoscenza aumenta il dolore. Ecclesiaste 1:18. Gesù sapeva a cosa andava incontro, conosceva la volontà di Dio e per questo soffriva, era angosciato, la sua anima era oppressa. Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure, non come io voglio, ma come tu vuoi. È l'invocazione di Gesù rivolta al Padre. Questa preghiera dimostra ancora una volta che Gesù era un uomo a tutti gli effetti. Essa ci insegna due cose. 1. Egli aveva una sua volontà. Gesù era venuto per morire in croce, ma chiedeva a Dio se era possibile evitare questa strada. Non è sbagliato esprimere a Dio la nostra volontà, purché siamo disposti a non realizzarla se Lui non vuole. Vi sono cristiani che pensano di essere spirituali solo perché sono accondiscendenti. Non hanno nessuna volontà, nessun obiettivo e accettano tutto. Vivono in un mare eternamente tranquillo. Ma un uomo di Dio è colui che ha forti desideri, volontà precise, chiari obiettivi. Un uomo di Dio è uno che sa quello che vuole. 2. Il nemico più grande da sconfiggere per compiere la volontà di Dio non è l'incredulo, il peccato, la pigrizia, ma è la nostra volontà. Forse noi non ne siamo convinti, ma se crediamo di essere delle persone corrotte, comprenderemo che la nostra volontà spesso impedisce a Dio di compiere la sua. Noi spesso scambiamo la nostra volontà con quella di Dio, e questo ci impedisce di capire i piani di Dio. Dobbiamo avere una volontà per poi sottometterla al volere di Dio. Gesù era un uomo sottomesso, egli aveva una sua volontà, ma era pronto a rinunciarvi per accettare quella di Dio. Se un credente non cresce spiritualmente, se convive sempre con gli stessi problemi, se una chiesa non vive la gioia dello Spirito Santo, se vi sono matrimoni continuamente in crisi, se vi sono famiglie distrutte, è perché non realizziamo il principio della sottomissione. Se seguiamo Cristo solo in teoria, significa che in pratica stiamo con Satana. Forse non abbiamo compreso che la richiesta fondamentale di Dio non è di evangelizzare, di cercare la pace, di andare d'accordo con tutti, ma di essere sottomessi. All'inizio del nostro discepolato siamo tutti molto attivi, ma poco ubbidienti. Uno zelo senza sottomissione è la più grande rovina nel campo di Dio. Le nostre azioni non dovrebbero essere guidate dalla conoscenza del bene e del male, ma dovrebbero scaturire da un senso di ubbidienza. La preghiera di Gesù è il tipico esempio di sottomissione. Gesù voleva fare la volontà di suo Padre. Per lui la crocifissione aveva un valore relativo. Se fosse stata la volontà di Dio che egli non venisse crocifisso, Gesù l'avrebbe accettata. Il valore dell'opera di Cristo non sta nell'essersi lasciato crocifiggere, nell'essere morto per i peccatori, ma nell'aver accettato la croce, in quanto essa rappresentava per lui il volere di Dio. Vi sono cristiani che hanno un'idea sbagliata del cristianesimo. Per servire Dio non siamo chiamati a scegliere abnegazione e sacrificio. Non sta a noi scegliere ciò che ci aspetta. Sbaglia tanto colui che non accetta la sofferenza, come chi non accetta una vita tranquilla e vuole vivere a tutti i costi da martire. Questo non deve fare sorridere alcuno. Vi sono persone che vogliono essere dei missionari a tutti i costi senza chiedersi se questa è la volontà di Dio. Dio non ha bisogno di missionari, di eroi, ma di uomini che obbediscano al suo volere. E esce lui che conosce il progetto. Se un muratore nel costruire un edificio vuole fare il falegname, rovina il programma del capomastro. Se sul lavoro mi ostino a volere saldare mentre ci è bisogno di costruire o di fare dei fori, scombussolo il programma del datore di lavoro e il lavoro non viene consegnato al momento opportuno. Forse in cielo molti cristiani saranno sorpresi di non sentirsi apprezzati, nonostante che siano stati molti attivi. Capiranno che si sono affannati in tante cose, mentre Dio li chiamava ad un altro compito. Gesù era oppresso da una tristezza mortale. L'Evangelista Luca afferma che, essendo in agonia, pregava ancor più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Luca 22:44. Descrivendo questo stato d'animo di Gesù, il medico Luca ha voluto dirci qualcosa che forse fino ad oggi ci è sfuggito. È sbagliato pensare che Gesù sudò sangue. A causa del dolore che provava, dai pori di Gesù usciva un sudore che aveva le dimensioni di gocce di sangue. Gesù aveva un sudore come tutti gli altri uomini. L'intensità del dolore ne aveva però aumentato le dimensioni. Cos è che faceva sudare Gesù così profondamente? Qual era il suo dolore? Non era certamente un dolore fisico perché si trovava in una situazione ottimale, al fresco di un orto, e stava pregando. Egli era preso da grandissima tristezza, era angosciato, oppresso, si trattava di un dolore ad un livello mortale. Il dolore di Gesù non era comune, era talmente intenso che poteva procurargli la morte. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Ebrei 5:7. Non ho mai compreso questo brano fino a quando non l'ho considerato alla luce dell'agonia del Getsemani. Gesù pregò perché Dio lo salvasse dalla morte. Alcuni hanno pensato che egli pregasse per essere liberato dalla morte della croce, ma Gesù morì in croce. Se fosse stato riferito alla morte della croce, Gesù non sarebbe stato esaudito. Di quale morte si tratta allora? Dal momento che Gesù era oppresso da una tristezza mortale, pregò Dio perché lo risparmiasse da una morte improvvisa, che gli avrebbe impedito di compiere il mandato per cui egli era venuto sulla terra. Gesù temeva di morire nel giardino. Il peso che accasciava l'anima sua era tanto grande da produrre in lui una tale agonia da sentirsi sul punto di morire. E il Padre lo esaudì per la sua pietà, per il suo amore, per il suo timore. Dio esaudisce sempre le preghiere motivate dall'amore e dal timore. Crediamo a questo, così che, qualora non fossimo esauditi, ci renderemo conto che forse la nostra preghiera non è stata motivata dal vero amore e da un vero timore. Non sostengo che la preghiera non sia motivata da un certo affetto, da un certo sentimentalismo, ma non era scaturita da giuste motivazioni. Dobbiamo avere più fede in quello che Dio dice, che nei nostri sentimenti o motivazioni. Come disse Finney, fino a quando i cristiani non avranno motivi più elevati nell'offrire la preghiera, fino a quando non si elevi al di sopra dei sospiri di tenerezza materna e paterna, fino a quando non saranno spinti da sentimenti di simpatia, le loro preghiere e le loro fatiche avranno ben poco effetto. Gesù chiede per 3 volte di non bere il calice, concludendo ogni volta che fosse fatta la volontà di suo padre. Anche Paolo ha pregato per 3 volte che gli fosse tolta la scheggia dalla carne, e Dio gli rispose che doveva bastargli la sua grazia. Questi due esempi mi inducono a pensare che non sia lecito pregare per un problema personale troppo a lungo. Il nostro primo compito quando siamo in difficoltà non dovrebbe essere quello di pregare che Dio risolva il problema, ma di capire qual è la sua volontà. Quando preghiamo per anni, per lo stesso soggetto, corriamo alcuni pericoli. 1. Non sappiamo qual è la volontà di Dio e quindi continuiamo a battere la testa contro il muro. 2. Non abbiamo accettato la situazione. 3. Sembriamo spirituali nel chiedere ostinatamente. Ma colui che è sottomesso a Dio prima di tutto è una persona serena, che vive le circostanze difficili senza lamentele, rancori, brontolii, cioè con sottomissione. Gesù ha saputo accettare la volontà di Dio ed ecco che ora è pronto ad andare in croce senza amarezze. Come uomo, dato che Gesù era anche uomo, poteva avere delle amarezze nei confronti di Giuda, ma sapendo che questa era la volontà di suo padre, viveva serenamente tutto il dramma del tradimento. Egli accetta di essere deriso, schiaffeggiato, umiliato, di ricevere degli sputi dai romani. E tutto questo perché sa che questo è il piano di suo padre, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano predestinato che avvenissero. Atti 4:27-28. Nessuno di noi può sopportare una ingiustizia a meno che non lo riconosca e l'accetti dalle mani di Dio. Solo così egli può essere esente da rivendicazioni verso il prossimo. Nel giro di 24 ore Gesù viene messo in croce e mentre è inchiodato prega il Padre di perdonare coloro che lo avevano crocifisso perché non sapevano quello che facevano. Questo ultimo atto di amore scaturisce da una profonda coscienza di adempiere la volontà di Dio. Dopo aver adempiuto tutto ciò che stava scritto di lui nella legge, nei salmi e nei profeti, Gesù muore. Ed ecco che Giovanni, l'unico discepolo presente, rende questa testimonianza. Ora i giudei, essendo giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo, e poi anche all'altro, che era crocifisso con lui, ma, arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia. E subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Queste cose, infatti, sono accadute affinché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, Giovanni 19:31-37. Quello che ha stupito Giovanni nell'episodio della crocifissione del suo maestro è stato nel vedere che dal costato forato di Gesù era uscito non solo del sangue, ma anche dell'acqua. Sebbene non ne conoscesse la causa, Giovanni attribuì a questo fatto una grande importanza perché si preoccupa di affermare che sta asserendo la verità. Che cosa era successo di particolare sulla croce? Come è morto Gesù? La morte di Gesù è stata veramente unica, perché egli non poteva morire a causa della crocifissione. Aveva detto che nessuno poteva togliergli la vita, ma che l'avrebbe deposta lui. Se Gesù fosse morto a causa della crocifissione, sarebbe stato ucciso dagli uomini, si sarebbe sbagliato. Il suo ministero sarebbe stato screditato. Come conciliare la sua affermazione con il fatto che gli apostoli testimoniano che egli è stato ucciso? Ecco che tutta questa serie di interrogativi ha una risposta in quello che Giovanni ha visto. Gli studiosi affermano che quando un uomo muore per la lacerazione del cuore, i globuli rossi del sangue si coagulano e i globuli bianchi si separano in un siero. Ciò che vide il discepolo che Gesù amava fu la prova che Gesù era morto per la lacerazione del cuore, le parti si erano rotte, il sangue era fluito nel pericarpo e si era separato in un grumo e siero. Quando la lancia perforò il pericarpo, uscirono sangue e acqua. Questa è la prova che la causa della morte di Gesù non fu la crocifissione. Sì, Gesù morì dal dolore di crepacuore, perché Dio lo aveva abbandonato, perché egli si era caricato di tutti i peccati degli uomini, perché egli era stato fatto peccato. Non fu quindi l'uomo a uccidere Gesù, egli che era il principe della vita, ma egli stesso, dal dolore, donò la vita. Alla luce di questi fatti, la preghiera di Gesù del Getsemani ha un valore tutto nuovo. Egli ha pregato suo padre di poter restare in vita fino al momento della crocifissione. Il dolore che provava poteva stroncarlo sul momento. Se Gesù fosse morto nel Getsemani non avrebbe adempiuto tutte le profezie, non avrebbe terminato l'opera e l'umanità non sarebbe stata salvata. Al Getsemani Gesù vinse la più grande battaglia. Al Getsemani Gesù fu reso perfetto mediante la sofferenza. Al Getsemani Gesù compì un grande atto di sottomissione. Al Getsemani Gesù mostrò l'amore vero, totale, incondizionato. Ognuno di noi ha il suo Getsemani. Ognuno di noi dovrebbe avere il suo Getsemani, dove viene spezzata alla radice la nostra volontà. Il Getsemani di Abramo fu la richiesta di Dio di offrirgli suo figlio. Quella prova superata fu una benedizione senza fine. Determinò e condizionò il resto della sua vita e dell'umanità. Spesso le battaglie più violente non si svolgono e non si vincono in pubblico o nei momenti di grosse difficoltà, ma nei Getsemani, quando si è soli con Dio e si tratta di accettare ciò che ci costa enormemente. Gesù superò le difficoltà morali e fisiche inerenti alla crocifissione, seppe perdonare, aiutare, consolare coloro che gli erano vicino perché era stato vittorioso al Getsemani, perché là depose ai piedi del Padre la sua volontà. Nello stesso modo, la vita cristiana, in sintesi, è deporre la nostra volontà a Cristo, a rinunciare al nostro io. Ma ci deve essere una vera rinuncia del proprio io, così termina C.S. Lewis il suo libro. Mere Christianity, dovete gettarlo via, come si suol dire ciecamente. Rinunciate a voi stessi, e troverete il vero io. Perdete la vostra vita e la troverete. Sottoponetevi alla morte ogni giorno delle vostre ambizioni e dei vostri desideri, e alla fine alla morte del vostro corpo. Niente in voi che non sia morto potrà mai risorgere dalla morte. Cercate voi stessi, e troverete alla fine solo odio, solitudine, disperazione, rabbia, rovina e sfacelo. Ma cercate Cristo e lo troverete, e troverete ogni altra cosa con Lui. Signore, io non vorrei bere questo calice, non la mia volontà sia fatta, ma la Tua. Una simile preghiera è quella che ci fa essere vittoriosi sul mondo, ma soprattutto su di noi stessi. Sia fatta la Tua volontà. Così commenta Lutero la preghiera, sia fatta la tua volontà, nel suo libro Il Padre Nostro. Chi ha ed eseguisce la propria volontà opera certamente contro la volontà di Dio. Or nulla l'uomo, è tanto caro e tanto difficile a tralasciare quanto la sua propria volontà. Molti compiono opere grandi e buone, seguendo del tutto la loro volontà e ogni loro inclinazione, e pensano ciò non di meno di essere sulla buona via e di non fare nulla di male perché ritengono la loro volontà buona e giusta. La nostra volontà è malvagia in due modi. Innanzitutto, apertamente, senza finzione alcuna, cioè quando siamo portati spontaneamente a fare ciò che da tutti è considerato male, come adirarsi, mentire, ingannare, danneggiare il prossimo, essere impuri e simili cose. Codesta volontà e inclinazione si manifesta in ciascuno, specialmente quando viene provocato. In secondo luogo, in un modo nascosto e sotto parvenza di bene, come si espressero Giovanni e Giacomo contro i samaritani che non volevano ricevere Cristo. Signore, se tu vuoi, comandiamo che il fuoco scenda dal cielo e li consumi. Questo carattere hanno tutti coloro che, quando vedono che a loro o ad altri è fatta ingiustizia o un'azione stolta, vi si oppongono a testa bassa, e ciò che si propongono e pensano di fare cosa doverosa e giusta, a dirarsi e a stupirsi, ad inquietare se stessi e altri, e a fare molto chiasso, perché viene ostacolata la loro buona volontà. Ma se esaminassero un po' le cose alla luce del sole, scoprirebbero che è soltanto apparenza, e che nella loro buona volontà non hanno cercato altro che il loro utile onore, o perlomeno la loro propria volontà e il loro proprio parere. Poiché non è possibile che una buona volontà, se è veramente buona, divenga ilosa e inquieta quando incontra opposizione. E bada bene, è un segno certo che la volontà è cattiva se essa non può tollerare opposizione. L'impazienza è appunto il frutto dal quale devi riconoscere la apparente, falsa, perfida buona volontà. Accanto a queste due specie di cattiva volontà, vi è anche una vera buona volontà che pure non deve giungere a compimento. Così era la volontà di Davide 2 Samuele 7, 2, che voleva edificare un tempio a Dio, e Dio lo lodò per questo suo proposito, sebbene egli non volesse che si adempisse. Così la volontà di Cristo nel giardino, Luca 22 e 42, quando egli voleva rifiutare il calice. Eppure la buona volontà dovette cedere. Se dunque tu desiderassi convertire tutto il mondo, risuscitare morti, fare ascendere al cielo te stesso ed ogni uomo e operare tutti i miracoli, non dovresti volere nulla di tutto questo, senza avere anteposto la volontà di Dio ad ogni cosa e avere sottomessa e ridotta a nulla la tua volontà dicendo: «Mio buon Dio, mi sembra che questa e quest'altra cosa sia buona, se ti piace, avvenga, se non ti piace sia lasciata da parte». E Dio spezza spesso questa buona volontà anche nei suoi santi, affinché con l'apparenza buona non penetri la falsa, perfida, cattiva buona volontà, e affinché si impari che la nostra buona volontà, per quanto buona, è infinitamente inferiore alla volontà di Dio. Inoltre, la nostra buona volontà deve trovare opposizione, al fine di essere resa migliore. Perché certo Dio si oppone ad una volontà buona, soltanto per renderla migliore. Ed essa diventa migliore quando si sottomette e si conforma alla volontà divina che la ostacola, finché l'uomo si calma del tutto, diventa libero senza volontà e non sa più nulla se non di aspettare la volontà di Dio. Ecco, questa è vera obbedienza, nel nostro tempo purtroppo del tutto sconosciuta. Conclusione. Or tu vedi che in questa preghiera Dio ci comanda di pregare contro noi stessi, mentre ci insegna che non abbiamo nemico maggiore di noi stessi. Poiché la nostra volontà è ciò che di più grande vi è in noi, e noi dobbiamo pregare contro di essa. Codesta preghiera, oppure il suo esaudimento, fa male alla nostra natura, poiché la volontà propria è in noi il male più profondo e più grande, eppure nulla ci è più caro della nostra volontà. In questa preghiera non si cerca altro che croce, tormento, contrarietà e ogni sofferenza che serva a distruggere la nostra volontà. Perciò se gli uomini ostinati considerassero bene come pregano contro ogni loro volontà, sarebbero nemici di questa preghiera, o perlomeno ne avrebbero spavento. Giugno 2001, Ellero.